America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Bene, ieri sera è arrivato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Washington e domani vedrà il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. È una settimana, e anche nei prossimi giorni continueremo, che voglio dedicare al rapporto dei candidati alle nostre elezioni con l'America. Abbiamo fatto ieri una chiacchierata col Presidente del Consiglio Mario Monti, oggi la facciamo con Antonio Ingroia. Buongiorno dottor Ingroia. Buongiorno a voi. Lei è l'America. L'altro giorno c'è stato un convegno qui a New York piuttosto interessante. Si è parlato di investimenti diretti americani in Italia e ci siamo accorti che sono al 26esimo posto, cioè si investe dappertutto tranne che in Italia, perché trovano rigidità strutturali, trovano delle incertezze proprio sul fronte anche della magistratura, sul fronte delle cause che non si risolvono. Lei è favorevole ad aumentare gli investimenti diretti americani in Italia? Certamente sì, investimenti americani e comunque in generale investimenti stranieri. Noi l'Italia ha bisogno di investitori esteri per riattivare e sollecitare l'economia e così stimolare la ripresa economica, e non c'è dubbio che ci sono nel sistema italiano sicuramente delle cose che vanno modernizzate e delle altre che vanno eliminate. Quando parlo di modernizzazione mi riferisco alla burocrazia degli apparati statali e burocratici italiani, che vanno certamente semplificati, e quando mi riferisco all'eliminazione mi riferisco alle mafie e al sistema della corruzione, che certamente si sa che in Italia è molto pesante e ovviamente scoraggia gli imprenditori. E poi sul piano della modernizzazione il sistema della giustizia è assolutamente lento e farraginoso e non dà garanzia, sia il processo penale sia soprattutto quello che più conta per gli investitori, il processo civile, non dà adeguate garanzie. Non è colpa della magistratura, è colpa di un governo e di un Parlamento che ha legiferato guardando dall'alto e non guardando l'efficienza del sistema. Ma come si cambia questo? Perché poi lei, voglio dire, i magistrati poi anche loro possono aiutare a dare certe garanzie. Ma semplicemente cambiato il sistema. Noi abbiamo un sistema troppo lento, farraginoso, ci sono molti formalismi che appesantiscono i tempi, il sistema americano è un sistema anche dal punto di vista della giustizia certamente più efficiente e va rivisto ad esempio il sistema delle impugnazioni. Non voglio entrare nel dettaglio. Entrando nel dettaglio, proprio le aziende, io ho sentito, dicevano la mancata certezza di un contratto. Se a un certo punto questo contratto viene o revocato o non viene pagato, quando poi uno vuol farsi valere in tribunale, alla fine o va alle calende greche oppure non pagano. Insomma, è un'incertezza continua. Lei crede che si possa cambiare questa percezione di incertezza? Assolutamente sì, va fatta una riforma del processo penale e del processo civile che abbia tra le varie priorità possibili individua la priorità quella dei tempi. I tempi in un processo è qualcosa di fondamentale, è stato sempre ignorato in tutti i progetti di riforma in Italia, dove si è pensato altre cose, si è pensato il presunto equilibrio fra le parti, il PM, la difesa e così via. Invece bisogna guardare al sodo. Il sodo è assicurare una sentenza in tempi rapidi. Ecco, restiamo in tema magistratura e facciamo un salto alla politica. Lei è stato criticato perché ha fatto il salto, diciamo, da magistrato è entrato in politica. In America è abbastanza normale che questo succeda, però c'è anche un sistema diverso, cioè si riconosce che un magistrato può avere una posizione politica e dunque i procuratori federali vengono nominati direttamente dall'amministrazione in carica. I district attorney, cioè i cosiddetti magistrati locali, invece sono addirittura eletti, cioè devono correre per queste elezioni. In questo modo, soprattutto da parte dei procuratori federali, il passo verso la carriera politica è, diciamo, accettato ed è normale. Non sarebbe il caso di fare la stessa cosa in Italia, visto che di fatto Beh, insomma, nella magistratura lei, ma parlo di Grasso, magistrati della destra, andiamo indietro, Di Pietro, Violante, hanno fatto questo salto in politica. E dunque non è un po' il re nudo dire che i magistrati sono apolitici quando poi in realtà lo sono? Ah, infatti i magistrati, non è questa sia l'ipocrisia di dire i magistrati sono apolitici, però quel che conta è che i magistrati, fin tanto che fanno i magistrati, siano imparziali. Questa garanzia di imparzialità deve essere verificata nel loro lavoro. Poi è ovvio che ogni magistrato porta avanti un modo di interpretare il diritto e un modo di interpretare il proprio ruolo, che però non significa stare da una parte o dall'altra della politica, e ciò non significa che non sia poi legittimo che un magistrato entri in politica. È chiaro che un magistrato che fa politica poi non può tornare a fare il magistrato come lo faceva prima. Ecco, ma lei sarebbe favorevole allora a un salto in questa riforma generale del nostro sistema giudiziario e della magistratura, a che magari certi magistrati o alcuni magistrati siano eletti o siano nominati dalla politica? No, io sono contrario. Sono contrario perché comunque il sistema americano è un sistema più maturo, nel quale magari ci può essere sì la nomina del magistrato di nomina politica, ma quel magistrato va comunque avanti per la sua strada. Noi invece in Italia abbiamo una politica fin troppo invasiva, che non si accontenta, non si accontenterebbe di nominare il magistrato, ma pretenderebbe di condizionarne le decisioni. E quando lei ha avuto a che fare con i magistrati americani, quando ha lavorato con loro, che impressione ha avuto dal punto di vista della loro serietà professionale e della loro, diciamo, anche equità? Assolutamente straordinaria professionalità e serietà, proprio perché nonostante siano di nomina politica c'è un rispetto dell'attività giudiziaria tale da parte della politica negli Stati Uniti che non si potrebbe pensare di un condizionamento della magistratura. In Italia invece si cerca di condizionare i magistrati anche se non sono di nomina politica, figuriamoci cosa accadrebbe se i magistrati venissero nominati dalla politica. Incesto politica e affari, da noi se ne parla in continuazione, è una piaga del nostro paese. In America c'è un modo per cercare di evitare che ci siano delle collusioni poco chiare, ci sono le lobby, sono istituzionalizzate, sono trasparenti, ci sono persone che esercitano pressioni, per esempio presso la Camera o il Senato, per portare avanti la tesi di un certo gruppo imprenditoriale. Non crede che forse anche da noi fare un po' di trasparenza e regolamentare delle lobby vere e proprie possa essere una buona idea guardando in avanti? Sì, assolutamente sì. Io so che in Italia, ma con fatica e difficoltà, sta cominciando ad emergere anche un movimento che vuole dare riconoscimento anche alla professione del cosiddetto lobbista, cioè il professionista che opera nell'interesse delle lobby, degli strumenti di pressione. Certamente meglio una lobby trasparente anziché una lobby occulta. Sistema politico americano regge da 200 anni, ogni primo martedì di novembre, ogni 4 anni si va a votare. È un punto di riferimento per qualche riforma istituzionale o costituzionale del nostro sistema politico elettorale? Beh, certamente il sistema americano dimostra una sua appunto stabilità ed efficienza anche nella sua inflessibile periodicità. Il sistema italiano con fin troppi casi di elezioni anticipate non dà altrettanto certezze, assicurazioni e promesse di stabilità ai suoi cittadini. Oggi, o l'ho detto prima, oggi abbiamo il Presidente della Repubblica qui a Washington, domani vedrà Obama. Pensa che possano esserci, come dire, dei rimbalzi sulla politica italiana da questa visita? Beh, sempre quando il Capo dello Stato va negli Stati Uniti, un importante sede internazionale, è certo che ci sono sempre rimbalzi in Italia, ne sono certo. Bene, senta, noi chiudiamo, i miei ascoltatori sanno che possono continuare a trovare notizie sul nostro sito America24, ci seguono su Twitter, anzi li invitiamo a scriverci @ Mario Platero su Twitter. Chiudiamo con la canzone del giorno. Oggi è San Valentino, devo dire, lei ha l'onore di poter dedicare proprio nel giorno di San Valentino, abbiamo fatto ascoltare canzoni d'amore in questi giorni, una canzone. A chi la dedica e cosa sceglie? L'annunci lei. Beh, la dedico alla mia compagna, a Lia, e la canzone è Love Me Tender di Elvis Presley. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never Love me. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.